Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Covid, la ripresa dei contagi fa ripartire la riorganizzazione degli ospedali a Udine. Gli esperti a confronto su emergenza, varianti e terapie. Trasporto pubblico locale in bus in tutta la regione con un biglietto unico. Il giornaliero costerà 3 euro, tariffe scontate per le famiglie. Ballottaggi delle comunali, si insediano i seggi, domani il voto dalle 7 alle 23. Lotta allo spaccio a Trieste, il blitz della polizia locale dal centro alle periferie. Accoglienza dei profughi, il sistema resta sotto pressione, il report di Caritas e ICS a Trieste. Sviluppo rurale e imprenditoria femminile, un focus a Udine sull'innovazione in agricoltura. Al Parco Moretti arrivano i fondatori del circo contemporaneo, musica, socchieve, parte, carni, armonie. Sport basket, stasera al Pala Trieste, gli azzurri di Pozzecco sfidano la Slovenia. Calcio, pronto il calendario del massimo campionato, Udinese al debutto contro il Milan. Sabato 25 giugno, 7:19 minuti, buongiorno da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gallinzoni. Cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 6, a Trieste 23 gradi, a Udine 19,5, a Gorizia e a Pordenone 18,5, nell'area montana Tolmezzo 16, a Tarvisio 12 gradi, a Sappada 8,5, a Forni di Sopra 11, sul Piancavallo 9,5, sullo Zoncolan 10,5, sull'Ussari 9 gradi, tornando sulla costa a Grado 27,5, a Lignano 26 gradi, con temperatura del mare a 26 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia: al mattino oggi cielo sereno, nel pomeriggio su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso con brezza sulla costa, più caldo in pianura ma l'atmosfera sarà meno afosa rispetto ai giorni scorsi. Sui monti dal pomeriggio variabilità con possibilità di qualche rovescio temporalesco, più probabile sulle prealpi. Il Covid continua a crescere. Ieri in regione 1136 nuovi contagi su circa 5800 tamponi analizzati. Il tasso di positività sfiora il 20%, mentre l'incidenza è salita a 580 casi per 100.000 abitanti in una settimana. In aumento anche i ricoveri, ieri 7 in più nei reparti ordinari. Le persone in ospedale sono ora 141, comprese le 5 in terapia intensiva. Per gli specialisti si tratta ancora di numeri lontani dall'emergenza, anche se è già ricominciata la riorganizzazione negli ospedali. Il punto è stato fatto a Udine nella prima giornata di un convegno che proseguirà oggi. La media settimanale di nuovi positivi è quadruplicata rispetto a inizio mese, ma non cresce di pari passo il numero degli ospedalizzati. Omicron 5 è molto infettiva ma poco aggressiva. Possibile allora ipotizzare in ospedale la fine dei due percorsi separati, sporco e pulito, soprattutto laddove i positivi non hanno polmoniti, ma arrivano per altre patologie? Una gestione simile a quella dell'influenza, l'auspicio, con isolamento mirato senza sdoppiare la struttura. Mario Calci, direttore del pronto soccorso di Udine. La nostra idea è che ormai questi pazienti non debbano più essere tenuti così separati dagli altri, nel senso che il sistema sanitario fa fatica a tenere due reparti per ogni tipologia di paziente, per cui probabilmente sarà necessario un cambiamento di regime, no? Che ci permetterà di affrontare in maniera un pochino più lineare la circolazione del virus, che non è più un virus così pericoloso per tanta parte della popolazione. Da un convegno scientifico ad Udine, anche il vicepresidente Riccardi sottolinea come non bisogna lasciare indietro le altre prestazioni. La task force regionale si riunirà nelle prossime ore per verificare l'organizzazione ospedaliera. Come è stato sottolineato all'incontro, non si potrà prescindere dal ripensare anche le forme di welfare per chi lavora in corsia. Elisa Mattiussi, infermiera dell'Università di Udine. Prendersi in carico il benessere dei professionisti sanitari che sicuramente esitano in forme di burnout, stress, ansia e disturbi del sonno, per cui il benessere lavorativo dei professionisti sanitari risulta anch'esso fondamentale da considerare per il futuro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E il Covid e le quarantene hanno imposto a Trieste Trasporti una riduzione delle corse, decine quelle tagliate a causa, scrive l'azienda, di un nuovo deterioramento della situazione sanitaria e dell'elevato e crescente numero di conducenti assenti. La riduzione è cominciata questa mattina e riguarda 14 linee cittadine. Il dettaglio delle corse soppresse è pubblicato sul sito web di Trieste Trasporti. Intanto debutta il biglietto unico per il trasporto pubblico locale, la principale novità introdotta dal servizio di mobilità urbana TPL, 3 euro il prezzo del giornaliero. Biglietto e abbonamento unico su tutto il territorio regionale e sconti per famiglie, studenti e persone fragili sono alcune delle novità che entreranno in vigore dal 1 luglio e su cui la regione punta per ampliare la platea di utenti disposti a passare dall'auto privata ai mezzi pubblici. La novità più importante riguarda il biglietto giornaliero unico dal costo di 3 euro. Il nuovo titolo di viaggio sarà utilizzabile su tutti e 7 i servizi urbani del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia e sarà valido fino alla mezzanotte del giorno stesso in città diverse, ad esempio a Udine, Trieste o Pordenone e Gorizia. Ma sono tante le novità presentate nel corso di un incontro con la stampa da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Ipersimenti. Iniziative tese a rendere economico e agevole l'utilizzo dei mezzi pubblici. Nuovo abbonamento su tutta la rete al costo del vecchio singolo abbonamento a 35,20 euro al mese al posto di 70-40 e poi un occhio di riguardo a studenti, lavoratori e la famiglia e i soggetti fragili. Ma il pacchetto più consistente riguarda le famiglie senza limiti di reddito che devono fare più abbonamenti. Gioco all'acquisto del secondo abbonamento, un abbattimento dei costi del 20% sino al 70% sul quarto, sconto cumulabile con l'abbattimento del 50% del costo dell'abbonamento scolastico. Il tutto con un obiettivo finale, quello di arrivare entro l'inizio dell'anno scolastico al biglietto unico integrato treno e bus. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E si è conclusa a mezzanotte la campagna elettorale per i ballottaggi che domani serviranno a eleggere i nuovi sindaci di Gorizia, Zano Decimo e Codroipo. Oggi si insediano nuovamente i seggi, domani urne aperte dalle 7 alle ore 23. I dettagli e le istruzioni per esercitare il diritto di voto in questo servizio. 3 città chiamate al voto per eleggere il primo cittadino o la prima cittadina. Gorizia, Codroipo e Zano Decimo tornano alle urne 14 giorni dopo la prima tornata elettorale dove nessuno ha conquistato la maggioranza assoluta dei voti. Un mini test che riguarda 58.828 potenziali elettori, di cui circa 8.000 residenti all'estero, e un totale di oltre 78.000 cittadini da amministrare. Le urne, come 2 domeniche fa, saranno aperte solo la domenica dalle 7 alle 23. Per votare, come di consueto, occorre la tessera elettorale e un documento di identità valido. Chi avesse smarrito o deteriorato la tessera potrà ottenerne un duplicato presso gli uffici dei comuni che saranno aperti per tutta la durata della votazione. Sulle schede i cittadini troveranno il nome del candidato a sindaco e i simboli delle liste che lo sostengono. Ribadiamo che si vota per il sindaco e solo per il sindaco, tracciando un segno sul riquadro che contiene il nome del candidato, ma il voto si intenderà comunque validamente espresso se il segno viene posto anche o solo sul simbolo di una o più liste collegate o anche semplicemente all'interno del riquadro grande che li contiene. A differenza di domenica 12 giugno, lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. La nostra redazione lo seguirà sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social. Primi risultati e commenti nel GR di lunedì mattina e poi anche con collegamenti in diretta negli altri notiziari della giornata. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:27, cronaca nera e giudiziaria. Proseguono gli interrogatori in relazione all'indagine internazionale su traffico di droga che nelle scorse settimane ha portato la procura di Trieste in collaborazione con le autorità colombiane a coordinare 38 arresti e sequestro di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina. Rispondendo all'agenzia ANSA, il procuratore capo Antonio De Nicola ha spiegato che il sostituto Frezza sta conducendo diversi interrogatori, riscontrando in più di qualche caso un atteggiamento collaborativo. Potrebbero dunque arrivare sviluppi ulteriori sia sul versante degli arresti sia su quello dei sequestri di droga. E a proposito di droga, ma quella del piccolo spaccio in ambito cittadino, nei giorni scorsi la polizia locale ha effettuato un'ampia serie di controlli anche nelle periferie e ieri ha illustrato i risultati. Non solo i giardini pubblici, spesso zone franche per quel che riguarda il consumo di stupefacenti, ma anche i comprensoriater più problematici. Ha toccato gran parte delle periferie di Trieste, non solo. L'iniziativa di controllo legalità sul territorio operata martedì scorso dalla polizia locale, 8 pattuglie e 6 agenti in abiti civili, ideata con la collaborazione dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale e dei colleghi della polizia locale di Udine che hanno messo a disposizione 2 unità cinofile antidroga. Sono stati scandagliati piazzali, garage, cortili, luoghi segnalati da inquilini, individuate auto abbandonate fra i comprensori di Valmaura, via Grego, via Mascagni e anche il giardino di Villa Rivoltella e la pineta di Barcola. Lo scopo principale è stato dare alla popolazione un segnale della presenza e della vicinanza delle forze dell'ordine. A Barcola identificati 4 giovani fra i 16 e i 19 anni intenti ad assumere droghe leggere. Nel parco di Villa Rivoltella ha trovato un sacco che presumibilmente aveva contenuto stupefacenti. Nei comprensori Atter trovate targhe rubate e cellulari abbandonati. L'esito dei controlli ha reso la fotografia di una situazione migliorata rispetto al passato, che però non esclude altre criticità, come spiega il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Bilocchi. Purtroppo quando c'è richiesta c'è sicuramente anche offerta. Voi sapete che tutte le forze dell'ordine sono impegnate in queste attività, alcune di queste sono state, tra virgolette, sgominate, ma purtroppo traffico c'è sempre. Insomma. Giuliano Sadar, TGR Friuli Venezia Giulia. Le persone entrate nel sistema di accoglienza di Trieste nel 2021 sono state 6.489, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, un dato che non sorprende sia per gli effetti generali della pandemia, sia per lo stop dal gennaio 2021 della prassi delle riammissioni illegali in Slovenia. Ma i numeri sono comunque superiori a quelli del 2019, spiega Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, intervenuto ieri alla presentazione del report statistico annuale sull'accoglienza a Trieste realizzato con l'altro ente gestore dell'accoglienza, la Caritas. Abbiamo intervistato Schiavone. È un aumento anche rispetto al 2019, questo ci dice quello che qualunque analista sa bene, cioè che i conflitti di base da cui provengono le persone non sono affatto terminati, semmai sono peggiorati, pensiamo al peggioramento della situazione dell'Afghanistan per esempio. Quindi noi ci dobbiamo aspettare una situazione, diciamo, di una certa stabilità, di una crescita degli arrivi. Per il momento quest'anno gli indicatori sembrano dare una certa stabilità, ma è l'estate quella che soprattutto determinerà, diciamo, i risultati, per così dire. Sono già ripresi gli arrivi, basta vedere in Piazza Libertà. Sono già ripresi gli arrivi, basta appunto vedere in piazza. Lì emerge il problema non risolto, che forse direi l'unico vero grosso problema non risolto, e cioè il fatto che non esiste un sistema di accoglienza, di primissima accoglienza di bassa soglia per coloro che non intendono restare, diciamo, che intendono proseguire il loro viaggio. Questa è una responsabilità politica, perché questi servizi esistevano fino al 2020 e sono stati tolti, il che vuol dire che questo costringe le persone a rimanere appunto sulla strada, sia pur per pochissimo tempo, perché sono persone in transito, e ad affidarsi alle cure, in tutti i sensi proprio, materiali e all'informazione che comunque le associazioni danno, ICS, Linea d'Ombra, Strada Sicura, IRC, cioè il coordinamento di associazioni che adesso si occupa della piazza, però con un grande disinteresse istituzionale. Quali sono i timori per l'estate? Di non riuscire a gestire i picchi degli arrivi con una struttura Casa Malala che normalmente è utilizzata e pensata per essere una struttura di primissimo arrivo, accoglienza e transito, e che al momento è utilizzata per le famiglie ucraine. È necessario quanto prima spostare le famiglie ucraine in situazioni più idonee per loro e avere anche la struttura di Casa Malala per la gestione della rotta balcanica. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Si chiama Stargate nelle Alpi, il progetto che punta alla rigenerazione urbana nei territori montani caratterizzati da fragilità sociale ed economica, come ad esempio carenza di servizi e infrastrutture, spopolamento o accessibilità difficoltosa. Il progetto è vincitore di un avviso pubblico promosso dal Ministero della Cultura ed è realizzato sul nostro territorio dalla cooperativa Cramars di Tolmezzo. Gli Stargate alpini sono strutture interattive a forma di lanterna, perfettamente integrate nell'arredo urbano delle località di montagna, destinate a diventare un faro di attrazione e comunicazione da e per il territorio. Tra oggi e domani ne sarà installato uno ad Ampezzo in piazza Fachin. Focus sul mondo femminile e sui giovani impegnati nel settore primario, l'agricoltura. Su questo si incentra la terza tappa del roadshow Armonie di Territori, in programma questo pomeriggio alle 16.30 al Salone del Parlamento del Castello di Udine. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Rete Rurale Nazionale e dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Donne e giovani sono infatti i principali attori della innovazione, del cambiamento, anche in un ambito tradizionale come quello agricolo, in un'ottica di maggiore competitività, multifunzionalità e soprattutto sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Silvia Abelli del Programma Regionale di Sviluppo Rurale ci racconta alcuni casi virtuosi di giovani imprenditrici agricole. I casi che presentiamo sono vari, ad esempio c'è Alessia Berra che da niente ha deciso di mettersi in un allevamento di capre e adesso ha un bellissimo allevamento dove trasforma il suo latte in fantastici formaggi a Taipana. Elisa Manig che faceva l'hostess di volo e poi invece ha deciso di ritornare in patria e di aprire un allevamento bovino. Eleonora Cosolo invece aveva di per sé un'azienda agricola di famiglia, ma ha deciso di diversificare le produzioni, quindi oltre alla produzione classica coltiva piante officinali e si appoggia ad altre strutture per trasformarle in idrolati, in sciroppi piuttosto che in creme e prodotti di bellezza. Anche Altea Sirianni nasce da zero a Codroipo e ha creato un'oasi molto piacevole dove coltiva verdura e alleva animali allo stato brado. Nei Magreti Deborah Gelisi, anche lei viene da una famiglia di viticoltori e prosegue insieme ai fratelli la tradizione di famiglia, però hanno deciso di creare una società solo coi tre fratelli nella quale si occupano di produzione biologica. Nel settore c'è una grande soddisfazione, intanto la soddisfazione di vedere un prodotto, non dico immediato, ma insomma quasi, e poi la soddisfazione di veder riconosciuto il proprio lavoro anche proprio dalla crescita della pianta piuttosto che dal benessere dell'animale. Questo credo sia una grossa spinta. Che cosa invece apportano i giovani e le donne al settore primario, quello agricolo? Sono il futuro. Noi abbiamo un settore primario che è invecchiato molto e che quindi ha ancora bisogno di essere svecchiato. I giovani e le donne sono importanti anche a livello di creatività e innovatività del settore. 7.35, la pagina della cultura. A San Vito al Tagliamento viene inaugurata oggi la mostra Martina Zuccheri Tramontin de Rocco, storie di pittura a San Vito, che si potrà visitare fino al 28 agosto all'antico ospedale dei Battuti. Saranno esposte 110 opere provenienti da 13 collezioni private e una pubblica dei 4 grandi artisti friulani. Finora inesplorati alcuni collegamenti fra loro, che oggi emergono a 60 anni dalla scomparsa di Federico De Rocco e a 20 da quella di Virgilio Tramontin. La mostra è curata da Antonio Gallatti, Giancarlo Pauletto e Lodovico Tramontin. Un grande contemporaneo, Giorgio Celiberti, è protagonista invece di un'iniziativa cividale, una mostra all'aperto dal titolo Tramature. Fino al 25 settembre, nei luoghi più significativi della città, saranno esposti i celebri guerrieri e le steli di Celiberti, che all'inaugurazione alle 18.30 converserà con Angelo Floramo e Paolo Mosanghini. È un omaggio ai 100 anni di vita della scuola mosaicisti del Friuli, il festival Come l'acqua dei fiumi di Spilimbergo. Alle 11 ci sarà la visita speciale alla scuola di mosaico con accompagnamento musicale degli studenti dell'Istituto Fano e della Orchestra Giovanile Santa Margherita di Anduins, diretta dal maestro Carlo Zorzini. Alle 19.30 invece alla chiesa di San Giuseppe e Pantaleone i giovani interpreti del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia si esibiranno nel concerto Voci che creano, voci che incantano, con la direzione di Mirko Ferlan, su un repertorio musicale classico dall'antico al contemporaneo, con particolare attenzione alle opere di compositori regionali. I temi dell'ambiente. A Trieste da tempo è attivo il bike sharing, un servizio che viene incontro alla crescente passione dei cittadini per la bicicletta, ma permangono le criticità di una città che non è ancora a misura di ciclista. Sentiamo. I triestini e i turisti in visita amano la bicicletta, lo dimostra anche il crescente interesse verso il noleggio di quelle comunali. Più di 13.000 gli abbonati, 120.000 i viaggi, con picchi di oltre 5.000 utilizzi al mese. Il comune ha presentato un bilancio del servizio di bike sharing che ha compiuto 2 anni e ha annunciato la costruzione di 11 nuove ciclostazioni, andando così a raddoppiare il numero di stazioni esistenti. Saranno finanziate dai Ministeri della Mobilità Sostenibile e della Transizione Ecologica. Presto entreranno in servizio 66 nuove biciclette più performanti di quelle attuali, che al momento sono quasi tutte senza pedalata assistita. Un dettaglio importante questo in una città con grande dislivello come Trieste. Ma come si usano? Basta scaricare sul cellulare la app Bici in Città. Il giornaliero costa 8 euro ed è valido 24 ore. Si spende anche meno con la tessera ricaricabile o abbonandosi per tutto l'anno. Quello che continua a mancare, però, sono le piste ciclabili sicure. Guardi, io vengo da Roma, non trovo grandi differenze, ho detto tutto. Ogni volta che passo per la ciclabile da Barcola verso città ci penso sempre e dico come mai non mettono a posto queste ciclabili, magari anche prendendo l'esempio della Slovenia dove si può andare benissimo. Da Gorizia fino a qua, che ci siamo adesso, è bella. Poi da qua fino a Muggia è un casino e poi da Muggia verso Capodistria è ancora bella. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuano a Trieste i sabati ecologici a cura di Acegas APS AMGA. Per la prima volta lo staff della multi-utility sarà a Melara dalle 10 alle 16 presso il parcheggio Iqbal Masih per assistere i cittadini nello smaltimento di rifiuti ingombranti e particolari che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. Insieme a loro il gruppo di recupero creativo Ricreazione, una nuova vita ai tuoi rifiuti della Onlus oltre quella sedia. Una giornata da dedicare alla cura dell'ambiente, alla pulizia e cura dell'area urbana, in programma questa mattina tra le 9.30 e le 11.30 al quartiere Aurora di Udine, l'appuntamento per famiglie, bambine e ragazzi allo spazio verde antistante il punto incontro giovani. Questa mattina a Trieste si presenta la giuria del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, la presiede lo scrittore Carlo Lucarelli. L'appuntamento alle 11.30 a Palazzo Gopcevic è pubblico e saranno annunciati anche i vincitori delle borse di formazione Mattador. Ieri intanto l'annuncio dei premi di Shorts International Film Festival, che saranno consegnati l'8 e 9 luglio a Trieste. Andranno al regista Gabriele Mainetti e alle attrici Aurora Giovinazzi e Teresa Saponangelo. La rassegna organizzata da Mare Metraggio si svolgerà nel capoluogo regionale dall'1 al 9 luglio. La musica agli ottoni dei Wiener Philharmonica inaugurano questa sera a Sochieve il Festival Carni Armonie. Quattro tromboni e una tuba saranno protagonisti del concerto nella Pieve di Santa Maria Annunziata alle 20.30. La 31esima edizione di Carni Armonie proseguirà fino al 10 settembre. Il programma conta 43 concerti in 35 località. Tutt'altro genere per il tardo pomeriggio nel parco di Villa Manin, dove si esibiscono questa sera il rapper Frankie High Energy e il quartetto jazz formato dagli Al Jazeera e Giorgio Licalzi. Un concerto basato sulle contaminazioni musicali fra fraseggi hip hop e le influenze magrebine, afroamericane e medio orientali, d'inizio alle 18.30. Gli altri spettacoli di oggi: due appuntamenti per il Festival Estivo del Litorale alla 7ª edizione. In Sala Bartoli approda Gli Amanti di Verona, il pietoso caso di Giulietta e Romeo con Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia e lo storico gruppo folk siciliano Agricantus. A Miramare va in scena la replica dello Zibaldone triestino con Fulvio Falzarano, Sara Alzetta e Mauro Serio. Il Festival Palchi nei Parchi sarà oggi a Barcis, a Villa Emma, per l'evento dal titolo Quasi un giro del mondo. Suonerà il duo Villa Maddalena, ovvero il fisarmonicista Nicola Zaric e il clarinettista Franz Oberthaler, insieme a Berti Maier, armonica a bocca. A Fagagna la Chiase di Catine ospita il concertone Liberty City Sound, 6 ore di musica dalle 17 alle 23, protagonisti 6 gruppi del territorio fra indie, rock, pop e jazz. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione su Eventbrite, info sul sito di Damatra. Aspettando Udine and Jazz è il titolo del concerto che al Caffè Caucigi avrà come protagonista il trio composto da Bruno Cesselli al pianoforte, Luciano Poli al basso e Jacopo Zanette alla batteria, questa sera alle 21. A Udine alle 21 sul prato del Parco Moretti arrivano i Bistacchi, il collettivo francese di danzatori e giocolieri che sono considerati i papà del circo contemporaneo in Europa. I circensi porteranno in scena il loro spettacolo Bainanà nell'ambito del Terminal, il festival dell'arte in strada. Il collettivo francese con questo spettacolo si appropria ancora una volta dello spazio pubblico per tracciare una affresco sociale stridente, onirico e assurdo del mondo contemporaneo, vestiti con costumi bianchi e armati di pale da neve e mais come spunti di riflessione, gli artisti inviteranno il pubblico ad attraversare spazio e tempo in un sorprendente viaggio coreografico e musicale a metà tra il mondo circense e quello della danza. Sentiamo Davide Perissutti, direttore artistico del Festival Terminal. Le persone ancora spesso interpretano, no, il circo come quel fenomeno del tendone che arriva con gli animali, fa un numero molto spettacolare che si limita a stupire il pubblico. Qui invece noi stiamo parlando di un'altra performance simile alla danza contemporanea o al teatro, che porta in scena non solo lo stupore del numero del numero circense, dell'abilità, ma anche ha in sé un portato, una storia, una drammaturgia, si direbbe, che racconta al pubblico anche un universo di senso che riesce a mettere in scena facendo della ricerca sui propri movimenti, sull'emozione che vuole trasmettere al proprio pubblico. Forse questa è la differenza, la cifra, no, che distingue il circo classico dal circo contemporaneo. Rimane un retaggio e una forte appartenenza invece al mondo circense tutto ciò che riguarda il virtuosismo e la tecnica di circo, per cui non è eliminato il numero e l'allenamento nel creare trick, quindi diciamo giochi di abilità manuale o di abilità acrobatica che avvengono in scena. In questo caso, nel caso della compagnia che si esibirà stasera, porteranno in scena 600 kg di mais che muoveranno con delle pale da neve e dei divani e costruiranno la scena attraverso numeri di danza, ma come sto dicendo anche con dei numeri da giocolieri, per creare uno spettacolo che va oltre però il numero circense, che va oltre l'abilità tecnica e sfocia anche in un movimento del corpo, una drammaturgia e qualcosa che risulta bello da vedere al di là del momento stupefacente del numero, del trick. A Pordenone sfileranno nel pomeriggio i carri e i gruppi mascherati del carnevale estivo, la partenza alle 17 da Viale Marconi, l'arrivo a Viale Martelli dopo aver attraversato il centro. La viabilità cittadina subirà opportune modifiche fra le 11 e le 19. Ad aprire la sfilata sarà la Filarmonica Città di Pordenone, parteciperanno 10 carri e 6 compagnie con una delegazione anche da Muggia. Festa in costume a Muggia, l'insegna del barocco della Serenissima Repubblica di Venezia, per la ricorrenza dei santi patroni Pietro e Paolo in piazza Marconi alle 20:30 è in programma una passerella in costumi d'epoca con musiche e antiche danze istriane a cura dell'associazione musicale Serenade Ensemble e poi alle 21 in Duomo concerto di Manuel Staropoli e Manuel Tomandin. Il 25 giugno di 130 anni fa un decreto imperial regio proclamava grado stazione di cura e soggiorno. Nel giro di qualche decennio la località divenne meta di villeggiatura alla moda dell'impero austro-ungarico. Per celebrare la ricorrenza dalle 20 alla spiaggia Git lungo i viali pedonali e fino a Campo Patriarca Elia ci sarà una sfilata in abiti d'epoca e subito dopo la performance Horizon, proiezioni dal cuore dell'isola di Grado, la Basilica di Santa Eufemia. Diventerà la tela su cui saranno proiettate le immagini ad alta definizione in tre dimensioni tratte e ispirate dall'arte del territorio graisano. Passiamo allo sport, basket, è il giorno di Italia-Slovenia, al Pala Trieste si gioca alle 20:30 in un impianto che si annuncia tutto esaurito. Tra gli appassionati c'è la grande curiosità di vedere all'opera i talenti sloveni, a cominciare dal fenomeno Doncic, ma anche di scoprire gli azzurri di Gianmarco Pozzecco che debutta sulla panchina della nazionale nella propria città. Sentiamo il coach. Si comincia dal Pala Trieste dove ti senti comunque sempre a casa. Un Pala Trieste che sarà pieno per l'occasione, forse con Luka Doncic, insomma c'è tanta carne al fuoco. Forse un po' troppa, l'ho già detto ai ragazzi, contro la Slovenia sarà una partita particolare, per il sottoscritto sicuro perché gioco nella mia città e quindi, come dire, emotivamente sarà un po' complicato, anche perché quando sono andato via da Trieste, sono andato via per giocare a pallacanestro e non si pensava che potessi diventare un giocatore di pallacanestro, figuriamoci una nazionale. Quindi sarà sicuramente un momento particolare per me, però, come dire, una volta che sarò entrato in campo e arriverò alla panchina, poi da quel momento in poi diciamo che il palcoscenico deve essere totalmente a disposizione dei ragazzi. Il diavolo scudettato alla vigilia di Ferragosto. Comincerà così il prossimo campionato dell'Udinese con la trasferta al Meazza nel turno che aprirà la massima serie di calcio. Poi il debutto casalingo con la Salernitana e il confronto con il Monza neopromossa che aspira a diventare la provinciale di riferimento. Il calendario varato ieri proporrà questi altri capisaldi per i tifosi bianconeri: il 18 settembre la partita al Friuli contro l'Inter, il 19 marzo il ritorno contro il Milan e poi gli scontri con le big al Friuli che saranno il 3 maggio contro il Napoli, infine il 4 giugno contro la Juventus, ultima di campionato. Una partenza molto impegnativa ma allo stesso tempo molto affascinante, ha commentato l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil. Ci faremo trovare pronti perché avremo subito un avvio a San Siro molto stimolante. Per il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino invece le grandi squadre è meglio sfidarle all'inizio che alla fine. Sono più preoccupato, ha detto, del finale di campionato con la Juventus piuttosto che l'inizio con il Milan. Il Pordenone Under 19 femminile va all'assalto dello scudetto di categoria. Questa mattina Firenze contenderà il titolo italiano allo Spezia. Si gioca alle 10:30. Le neroverdi sono approdate a questa finale dopo aver vinto il girone Triveneto e poi eliminando Bologna e Torino. A scendere virtualmente in campo, sottolinea la società neroverde, ci saranno le 100 tesserate del settore femminile e i 300 ragazzi del vivaio. La pallamano Trieste è salva, ma parteciperà al prossimo campionato di A2. Ieri l'annuncio dell'iscrizione da parte della società che avvierà un programma di ristrutturazione centrato sul settore giovanile. L'obiettivo è riportare nell'arco di 3 anni la squadra nella massima serie attraverso un nucleo di giocatori cresciuti nel vivaio. Altri appuntamenti sportivi di oggi: a Rieti, i campionati italiani di atletica leggera, nutrita la pattuglia regionale, 27 gli iscritti in rappresentanza di 7 società, la più rappresentata è l'Atletica Bruniera che schiera anche la recente bicampionessa italiana allieve Baofami Friveso con ambizioni di medaglia nel salto triplo. A Lignano torna il beach rugby con 4 squadre regionali impegnate nella prima fase del campionato italiano. Dalle 15 alla Beach Arena giocheranno Pordenone, Sharks Lignano, Alpe Adria e Pasian di Prato. A Udine in programma dalle 16 al campo di calcio del Parco di Santo Svaldo il meeting sportivo Memorial Manuel Lago che vedrà incontrarsi 8 squadre dell'Associazione Nazionale Polisportive per l'integrazione sociale da Udine, Gorizia, San Vito e Trieste. Ginnastica artistica, sono aperte le iscrizioni al camp dell'Artistica 81 di Trieste che si svolgerà dal 25 al 29 luglio, curato da Federica Macrigia, colonna della Nazionale, e Thea Ugri, 2 volte campionessa italiana assoluta e ancora in attività. Tutto questo negli spazi di Via Vespucci. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai recapiti dell'Artistica 81. Alle 7:51 minuti la rassegna stampa, al via il biglietto unico, ticket validi per i capoluoghi e per Lignano, Grado e Monfalcone, sconti per studenti e lavoratori, e questa è l'apertura del Messaggero Veneto. In taglio alto si parla della sanità, deve riorganizzarsi per affrontare la nuova ondata di Covid e poi la siccità. Non bastano i temporali nei giorni scorsi, da dicembre meno 53% di pioggia, quindi il lavoro, cassa integrazione straordinaria raddoppiata a maggio, l'incremento è stato del più 127% rispetto al mese di aprile e del più 102% sul 2021. Di spalla la cronaca locale, entrano in chiesa per rubare dalla cassetta delle offerte, mandano in frantumi il crocifisso di legno, è accaduto a Lignano, il parroco avvia una sottoscrizione per il restauro dell'opera. A Udine basta multe illeggibili, i vigili urbani stamperanno i moduli delle contravvenzioni con un tablet. Il dorso di Pordenone del Messaggero Veneto, qui in cronaca locale si parla della raccolta rifiuti che non funziona. A Rorai montano le proteste, cassonetti stracolmi da almeno 3 settimane. E poi l'inquinamento vero o presunto del Noncello, Legambiente segnala la presenza da oltre un mese di una scia di schiuma bianca nelle sue acque. Infine, sempre nel capoluogo della destra Tagliamento, emessi 7 DASPO urbani contro alcuni mendicanti che si fingevano ammalati o invalidi. La cronaca cittadina in primo piano sul Piccolo di Trieste, titolo principale per il progetto Fuxas che rilancia il confronto sulla cabinovia. Per le categorie legate al turismo si tratta di un'attrazione, mentre resta la contrarietà di comitati e opposizioni. Altro tema forte, raddoppio del laminatoio di Arvedi nell'area dell'ex ferriera. È arrivato dalla regione via libera alle nuove linee che accresceranno le capacità di produzione. Ampio spazio alla risalita dei casi di Covid e fra gli argomenti di politica estera in primo piano l'abolizione al diritto di aborto negli Stati Uniti. Nelle pagine degli spettacoli l'annuncio dei premi di Shorts, il festival di maremmetraggio, e sull'edizione di Gorizia tiene banco naturalmente il ballottaggio per le comunali. Grande foto dei duellanti, titolo Ziberna Fasiolo, due visioni per Gorizia. Da Monfalcone una storia sulla quale indaga la polizia locale dopo la foto scattata da un cittadino lungo il canale dei dottori, sorpresi a rubare i germani reali per mangiarseli, titola il quotidiano, ma i contorni della vicenda sono ancora imprecisi. Anche il Gazzettino titola sulla novità del trasporto pubblico locale, biglietto unico per i bus in Friuli. Sull'edizione di Udine si parla poi di un caso di legionella in ospedale, muore un paziente che era ricoverato per un tumore. Poi sempre a Udine si parla del provvedimento dell'amministrazione comunale per normalizzare i consumi di acqua del campo nomadi di via Montesei Busi. Dopo il limitatore ora è stato installato un contatore digitale, una misura, dicono, del comune tanto più necessaria in quanto tutta la regione si trova in emergenza siccità. Si parla quindi di sanità, convenzioni con 4 nuove strutture private per tagliare le attese di oculistica. Ad oggi per essere operati di cataratta, per esempio, c'è oltre un anno di attesa, a cui si aggiungono i 500 giorni di attesa per la visita propedeutica all'operazione. In economia si parla di Civibank, Sparcasse assicura che l'istituto cividalese manterrà il proprio nome. Il Gazzettino di Pordenone, buchi nelle strade, da alcune settimane in diverse strade della città si creano delle voragini nell'asfalto, in alcuni casi si tratta di buchi profondi anche alcuni metri e c'è sul giornale una mappa dei rischi. Anche qui si parla del Daspo urbano comminato da alcuni mendicanti che importunavano con insistenza i cittadini e poi a Sacile parte il progetto del planetario nella torre. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. In sommario gli appuntamenti per gli amanti della lettura nel Pordenonese organizzati da Orto Teatro e poi i consigli di lettura sotto l'ombrellone. In studio Anna Dalton, attrice e scrittrice che ha appena presentato il suo ultimo libro Le tre figlie. In questa puntata anche l'affermata scrittrice di gialli Roberta De Falco con il suo ultimo La vendetta di Giobbe, ambientato tra Trieste e Monfalcone. Questa edizione del GR è stata realizzata da Lorenzo Gerlinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Giuliano Pecorari e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Samantha Gon. 7.55, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. Grazie, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.